Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non era mai accaduto nel campionato da tre punti per vittorie, cioè dalla stagione 94-95, che le prime in classifica avessero soltanto 12 punti dopo sei giornate. Non accadeva, appunto, non era mai accaduto con i tre punti per vittoria, non accadeva anche da più anni, calcolando i due punti per vittoria e uno per il pareggio. Per esempio, bisogna tornare al 91-92 per trovare il Napoli di Ranieri, pensate, con tre vittorie e tre pareggi, e cioè con gli stessi risultati che hanno ottenuto sino a qui le due prime della classe, che sono Juventus e Udinese. Questo per dire come un torneo così equilibrato sia un fatto rarissimo, storico addirittura, testimoniato, mi verrebbe da dire arricchito, anzi semmai è impoverito, però per la precisione, impoverito da un numero di gol sempre più basso. Credo che il pomeriggio calcistico di ieri ha strabattuto ogni record in materia, perché su sei partite disputate si sono visti 5-0-0 e un 2-0 esterno del Bologna-Novara, che significa che 11 squadre su 12 impegnate nel pomeriggio domenicale non hanno trovato il bersaglio. Poi è vero che sono stati colpiti sei pali in quelle sei partite, e quindi due del Cesena, tra l'altro, in particolare, e quindi sì, per carità, non è che non ci abbiano almeno provato, ma la produzione è stata davvero bassa, sicché i gol, alcuni dei quali molto belli, si sono limitati ad anticipi e posticipi serali o tardo pomeridiani, come nel caso di Catania-Inter. Come sempre a lunedì i commenti principali li faremo insieme, no? Ispirati dai vostri interventi in diretta. Qualche altro numero curioso di questa giornata: beh, vi ho già detto dei pochi gol, è il minimo stagionale. Pinzi è arrivato alla 12ª espulsione in carriera, che sono tante, poi per la verità quella di ieri a parer mio non la meritava, perché mi è sembrato che, insomma, sinceramente, la seconda ammonizione per uno spintoncino era uno spintoncino ancora più innocente di quello del giocatore del Chievo su Pirlo, e appena meno innocente forse di quello di Kier su Brocchi, che ha originato quel tuffo carpiato in area di rigore che, sinceramente, ecco, vedendo la giornata di ieri, a me personalmente è tornato in mente Dino Zoff, che da quel grande uomo di sport, galantuomo di sport che è sempre stato, c'è una categoria che non ha mai potuto tollerare e gliel'ha sempre detto in faccia, anche quando giocavano insieme a lui, che è quella dei simulatori o quella dei tuffatori. E a me pare che in questa giornata, tra l'attaccante del Catania Berghessio, tra Brocchi, tra Lavezzi, che ha cercato l'ennesimo rigore entrando e uscendo dall'area, combinazione, il contrasto decisivo determinante gli è arrivato quando ripassava per appena appena dentro un centimetro all'area di rigore. E lo stesso Pirlo, direi, no? Sia pure in maniera molto più innocente, perché la palla stava effettivamente cercando di difenderla, ma l'aveva persa. Beh, insomma, non mi è sembrata una domenica, un fine settimana all'insegna di un particolare fair play. Le emozioni principali alla fine sono arrivate proprio dal derby di ieri sera, e in particolare a 20 secondi dalla fine, quando la Lazio ha trovato il gol della vittoria, che da un punto di vista di numero di occasioni avrebbe meritato anche prima, ma da un punto di vista di resistenza forse la Roma quella punizione non l'avrebbe del tutto meritata. La gioia di Reja dopo tante delusioni, sentiamola. Beh, sì, ci voleva. Tra l'altro non pensavo che oramai non si riuscisse a vincere, perché abbiamo fatto un paio di traverse, abbiamo avuto delle buone opportunità, soprattutto al secondo tempo, e sembrava che questa palla non voleva entrare, invece poi a pochi secondi dalla fine è entrata, e finalmente, insomma, abbiamo dato una grande soddisfazione ai nostri tifosi. Però dopo questo gol, insomma, la squadra si è quasi come sbloccata e siamo riusciti a fare buone cose, buone trame di gioco, e poi abbiamo dimostrato, come sempre in questo campionato, grande carattere. I mezzi poi e l'esperienza vengono fuori alla fine. Niente, per fortuna Brocchi ha fatto questa penetrazione centrale, è venuto fuori questo rigore, c'è stata l'espulsione, e chiaro, dopo è stato un po' più facile, però abbiamo battuto, secondo me, una grande squadra. Meglio i nostri 0-0, scrive Max, che gli 8-0 inverosimili del campionato spagnolo. Beh, di 8-0 nel campionato spagnolo c'è stato uno solo sino ad ora. Dopodiché, se lei preferisce i nostri 0-0 al calcio che normalmente si vede in Spagna, lei è liberissimo, ovviamente. Non tutti i gusti sono alla menta, dicono dicono a Torino e dintorni. Riassunto di Atalanta Udinese, Stefano da Udine scrive: sarebbe stato meglio andare a Castagne che vedere quell'agonia di partita. Beh, insomma, quella sì che è stata una partita equilibrata, combattuta, in cui tutte e due sapevano che non era il caso di rischiare eccessivamente, perché l'altra poteva anche punirla. Questi sono gli 0-0 che tutto sommato hanno un pochino più senso, perché quest'anno l'attacco dell'Udinese è praticamente limitato a Di Natale. Se Di Natale non è in grande giornata, non ci sono grandi speranze per l'Udinese di andare a bersaglio. A quel punto è abbastanza normale un atteggiamento più prudente. Gli altri rischiano di più, certamente, ma rischiano fino a un certo punto. Insomma, c'è 0-0 e 0-0. Poi, un tempo era il risultato perfetto, no? E in genere questo vecchio paradosso viene attribuito a Gianni Brera, che in realtà invece l'aveva ricavato da un tecnico di allora, degli anni 50, che si chiamava Annibale Frossi e che era soprannominato il dottor Sottile, in due sensi: dottore intanto perché era laureato, sottile perché era piccolissimo, magro, con gli occhiali, era stato l'ala destra titolare, campione olimpico a Berlino 1936, e poi da allenatore era un tattico di altissimo livello. C'erano sì rigori su Lavezzi e su Berghessio, si mette gli occhiali Garanzini, li ho in questo momento proprio anche per leggere questi messaggi, ma che metta gli occhiali o che tolga gli occhiali, io sinceramente quei due rigori lì, poi ciascuno ovviamente il calcio lo vede come gli pare, no? Ci mancherebbe. Nel caso di ieri sera mi sono augurato per Tagliavento che, quando è andato in direzione di Schetto, come lo stesso telecronista ha pensato, distinto stesse andando per dire a Brocchi che insomma non era che un'area di rigore non è una piscina, e invece è andato calcio di rigore, che tecnicamente ci sta, perché Chiara una mezza strattonatina gliela dà quando entra in area di rigore, ma da lì al carpiato successivo veramente è una cosa. Ripeto, mi sarebbe piaciuto sentire Zoff in spogliatoio, anche se Brocchi fosse stato un suo compagno, perché il bello del vecchio Dino era che quando lui vedeva una simulazione, anche se era un suo compagno di squadra a commetterla, e questo vale per i tempi del Napoli, del Mantova, della Juve, persino in nazionale, poi alla fine se la doveva vedere con Zoff, che cominciava con "ma non ti vergogni, ma non pensi che hai dei figli a casa", eccetera eccetera. A me non riesce a non tornare in mente quando vedo, come nella giornata di ieri, ripeto, più di una forzatura, chiamiamola, una forzatura agonistica. Definire Pirlo un cascatore mi pare eccessivo, scrive Valerio. Un conto è simulare per giocare un rigore, un altro il mezzo fallo subito alla Juventino. Ma io mi auguro di non aver definito Pirlo un cascatore, non credo proprio che sia successo. Se è accaduto è stato un lapsus, perché nel caso di quell'episodio Pirlo ha soltanto accentuato una carica vera o presunta, io direi presunta, che ha subito, ma insomma ha prima nettamente perso il pallone, poi è chiaro che un po' si aggrappa lui per non lasciarlo andare, un po' quell'altro le mani le allunga, ma insomma se parliamo di allungare le mani in un campo di calcio, allora credo che si possa anche tranquillamente smettere di giocare. Si è sincero con noi, se la corsa sotto la curva invece che Rea l'avesse fatta Malesani, lei oggi che cosa avrebbe detto? Avrei detto la stessa cosa, un po' meno, nel senso che io capisco che Rea avesse tutto il diritto di sfogare finalmente la sua gioia, però sinceramente un uomo di quell'età, che è persino superiore alla mia, quindi davvero è discretamente avanzata, mi ha fatto un po' tenerezza, e mi fermo alla tenerezza, perché credo sinceramente che gli anni dovrebbero suggerire compostezza anche nella gioia, che capisco ed è ampiamente condivisibile. Antonio da Napoli, buongiorno. Sì, signor Garanzini, buongiorno. Io so che lei non ama i complimenti, quindi le faccio un rimprovero. Bravo. Prima ha raccontato l'episodio di Zoff, e io ogni volta che lei racconta questi aneddoti sono veramente squisiti, come quelli di Rocco, di Zoff. Il rimprovero è: ne dica qualcuno in più. Per quanto riguarda la domanda, invece, lei diceva che un campionato moscio come questo non si vede da 20 anni, e proprio questo volevo dirle. La Juve, che ha propositi bellicosi, anche se poi li nasconde, non è troppo aver perso 6 punti con Bologna, Catania e Chievo, anche alla luce del risultato scadente delle milanesi e di qualche passo incerto del Napoli, della Roma. Attendo la sua risposta. Antonio, grazie. Dunque, la risposta è articolata in 2 punti. Il primo è quello che ovviamente mi piace di più, che è l'apprezzamento per, ripeto, per questo modo di pensare e di comportarsi che aveva Zoff. Zoff ha raccontato già, poi me l'ha ripassato di recente, tra l'altro, che c'era un famoso cascatore anni 70 che si chiamava Luciano Chiarugi, che giocò nella Fiorentina e poi nel Milan in particolare, ma credo anche a Napoli poi, sì, anzi senz'altro, che insomma, qualche volta era convocato in nazionale, e quando era convocato in nazionale non trovava un habitat perfettamente ideale, perché Zoff, come arrivava, lo beccava e gli diceva che cosa pensava di lui e del suo modo di pittoresco di cadere, no? anche senza contatti. E va bene. E invece sull'altra parte io continuo a pensare, dopo averle viste tutte queste squadre per 6 giornate, continuo a pensare che il potenziale del Milan sia abbastanza nettamente superiore a quello di tutti gli altri. E quindi questo è un campionato che, se il Milan fallisce, come sembrava fino a sabato sera alle 20:44, che stesse appunto sbagliando stagione. Adesso l'ottica è un po' cambiata, perché il Milan ha giocato una signora partita l'altra sera, tenendo però presente che il Palermo probabilmente ha giocato. Il Palermo non ha ancora segnato fuori casa. Non è l'unica squadra a cui sia accaduto questo. Palermo, Cesena e Fiorentino non hanno ancora segnato in trasferta, ma al di là di segnare o non segnare, il Palermo non è letteralmente esistito, ed è strano, perché è una squadra che in genere riesce a essere, se non sempre brillante, ma come minimo pericolosa. Quindi il Palermo ha palesemente sbagliato partita, il Milan ne ha approfittato e ha fatto un figurone. Se però lei calcola che il Palermo attualmente è ancora 2 punti sopra il Milan in classifica ed è terzo, ci facciamo un'idea grosso modo di come questa partenza di stagione sia stata abbastanza mediocre e certamente, certamente contraddittoria. Se il Milan si ritrova anche da un punto di vista agonistico, cioè meno infortuni e più possibilità di schierare i migliori, credo che sia la squadra abbastanza nettamente più attrezzata di tutte. Se il Milan la stagione invece la sbaglia, io credo che possano vincere in tante, perché che ci sia una squadra guida mi sembra di poterlo escludere, per quel che si è visto fino adesso, ma anche per quello che è lecito proiettare un tantino in avanti, entro certi limiti. Dalla provincia di Forlì Cesena ha chiamato Emiliano, buongiorno. Ah, buongiorno Garanzini. Dica. Ascolti, niente, l'unica cosa che mi ha colpito un po' di una giornata piatta come quella di ieri, è stato il 2-0 del Bologna in trasferta a Novara. Bologna che secondo me ha una difesa che è molto più scarsa dell'anno scorso, non avendo più né Britos né Moras, al contrario il miglior attacco, è nato là, ha fatto 2 gol. A volte il cambio di allenatore, mi viene a dire, può anche proprio cambiare il volto a una squadra, ma forse semplicemente mettendoli in campo diversamente o cercando di avere le risorse, cioè cercando di sfruttare meglio le risorse che si hanno, perché forse il gol più bello della giornata ieri è stato quello di Ramirez a Novara. Sì, Emiliano, poi ripeto, però non facciamo di ogni partita una sentenza, no? Cioè prendiamo il risultato e cerchiamo di guardarlo un pochino in controluce. Il Novara non era quello. Il Novara non può essere la squadra che aveva battuto meritatamente e nettamente l'Inter, no? Anche perché l'Inter più o meno l'ha battuta meritatamente e nettamente tutti, e quindi, o quasi tutti, e quindi faceva testo fino a un certo punto. Però che ieri al Bologna sia girato tutto dritto, come invece non era accaduto in precedenza, mi pare che anche questo sia un dato di fatto. Quindi insomma, prendiamo dopo così poche giornate e con questi numeri, ripeto, sia di gol che di punteggi, io ci andrei pianino a prendere parola colato e soprattutto a proiettare sentenze sul futuro. Tonino dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Senta, io stamattina, io sono interista, stamattina ho letto su qualche giornale sportivo che insomma, il signor Moratti è indignato con gli arbitri qua e là, ma io dico, al di là del rigore giusto, non giusto, dato, non dato, ecco, con una squadra così dovrebbe essere indignato con i suoi calciatori, non con gli arbitri, perché per tutto il rispetto che posso avere per il Catania, però almeno un pareggio poteva portarlo a casa, perciò è inutile attaccarsi sul rigore, c'era o non c'era, una squadra così deve recuperare il risultato, non so cosa ne pensa lei, Salve. Io penso che ho letto sia pure un po' a fatica questa ennesima intervista a Moratti, non mi pare che Moratti sia partito da lì, mi pare soltanto che a un certo punto a domanda abbia risposto, sinceramente l'Inter mi pare sia arrivata a 4 rigori contro in 6 giornate, insomma, diciamo che come minimo 2 erano come minimo 2 erano del tutto inesistenti, insomma, il rigore che cambia l'orientamento della partita Inter-Napoli non esiste e il rigore dell'altra sera nemmeno, e le dirò che nel rigore dell'altra sera l'arbitro arrivando a gran distanza può anche essere indotto in errore, però da parte di Bergesio, secondo me, per come si lancia prima e strascica un po' il piedino, ho l'impressione che ci sia anche una premeditazione che invece nelle altre simulazioni di giornata non ho visto. Questo credo che sia un atto dovuto. Gentili conduttori, scrive Enrico Peca da Roma, scusate, sono un giornalaio, ogni mattina alle 5.30 tiro sulla serranda, dichiaro subito le mie simpatie razziali, a quell'ora mi fa compagnia la vostra radio, questa mattina alle 6 sono sobbalzato perché la vostra collega che legge l'edizione delle 6 del GR ha dato la Roma vincente nel derby. Capisco che la tifoseria razziale non goda di buona stampa, da qui a dare notizie false ce ne passa. Ecco Enrico, cioè, dato che ce ne passa e forse anche un po' di più, poi insomma, io credo che un equivoco, soprattutto alle 6 della mattina, uno ogni tanti anni possa anche accadere, dato che la collega si è quasi immediatamente corretta, mandando in onda il servizio sul dopo derby, io credo che possiamo chiuderla qui senza cattivi pensieri, no? Anche perché se c'è una realtà che non si può mistificare è quella dei risultati, quindi le pare. Antonino, provincia di Trento, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Ascolta, è un po' di tempo che mi frulla per la testa quest'idea, no? Siccome le squadre che subiscono in genere il calcio di rigore e l'espulsione sono particolarmente penalizzate poi per il proseguimento della gara, e non so se qualcuno l'ha mai proposto, però non si poteva fare in questo modo, tenere in sospeso l'autore del fallo. Tanto il gioco comunque è interrotto e non riprende fin tanto che non è stato battuto il calcio di rigore. Tenere in sospeso l'autore del fallo, eventualmente ammonirlo solamente in caso di rigore realizzato, che comunque evidentemente la squadra ha subito la penalità che doveva subire, ed espellerlo solo nell'eventualità che il calcio di rigore non venisse segnato. Antonino, non sarà un po' complicato? Non è un po' da basket una roba così? No, è semplicissimo. Guarda, io ho fatto l'arbitro per 15 anni, è una cosa molto semplice. Il giocatore rimane a bordo campo fin tanto che si... No, ma è chiaro, è tutto chiaro. Nel momento in cui viene realizzato è espulso, nel momento in cui no, io credo che molto più semplicemente che la doppia sanzione non dovrebbe esistere, se non in casi di particolare gravità, cioè di particolare violenza. Allora, dato che nel caso di ieri sera stiamo parlando di una del rigore di Roma, parlo di una leggerissima trattenuta subito interrotta, che però dà la possibilità all'avversario di una battuta a due piedi, no? Proprio come Cagnotto, come i Di Biasi dei tempi d'oro, con Carpiato in avvitamento. Beh, insomma, io credo che se lì l'arbitro ci pensa un istante, non sia quella che suggerisce lei la riflessione da fare, sia tutt'altro. Volevo chiederle, scrive Mirko, vista la vivacità che ha messo Del Piero al suo ingresso, non sarebbe stato meglio schierare all'inizio con Vucinic? Ma insomma, ieri la Juve in effetti un po' prudentina è stata, no? come schieramento, e Del Piero, non so se in quanto Del Piero o in quanto attaccante in più, comunque qualcosa ha prodotto negli equilibri della partita, anche se poi la prudenza iniziale di Conte si è vista nel finale, che non era poi così ingiustificata, perché proprio gli ultimissimi minuti mi sembra siano stati più del più del Chievo che della Juve. Più che un tuffo carpiato, quello di Brocchi a me è sembrato un volteggio al cavallo, con tanto di esultanza per il rigore rapinato. Sì, un altro ascoltatore la mette su questo piano, Mauro, ma si può esultare come Brocchi dopo aver preso un rigore del genere? Dà fastidio più quello che la furbata. E poi tanti altri messaggi ancora. Dunque, quando gliene davano di ridicoli, di rigori, di gol in fuorigioco, lei e Moratti dove eravate? Guarda, io Moratti stava, incassava con piacere e senza lamentarsi quei favori, non c'è nessun dubbio. Io stavo da tutt'altra parte, invece stavo qua a dire che mi sembrava che avessero regalato qualcosa all'Inter, no? Come esattamente adesso sto dicendo il contrario. Condivido invece, caro Alberto, caro fino a un certo punto, la seconda parte del suo messaggio, perché lei dice: prendete esempio da Luis Enrique e dal suo sobrio stile. Devo dire che Luis Enrique ieri sera ha riprova del fatto che noi dalla Spagna abbiamo soltanto da imparare sul piano tecnico, ma prima ancora sul piano culturale. Luis Enrique ieri sera ha dato una lezione di stile, ma anche ai grandi signori di casa nostra tipo Rey ha dato una lezione di stile rara, ma proprio veramente rara, e credo che questo non risarcisce la Roma, non la indennizza certamente, però qualcosa significa, perché in genere da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, si costruisce qualcosa per il futuro. Quello che non sta costruendo Mazzarri, se parliamo di educazione sportiva, Luis Enrique mi sembra invece che lo stia costruendo o ci stia perlomeno provando sul serio. Thomas, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzini. Non a lei. Niente, io volevo fare una riflessione o comunque chiedere un suo parere in merito alla Juve, perché io sono juventino, e in vista di una campagna acquisti, di un mercato svolto soprattutto nella fase, diciamo, dell'attacco degli attaccanti, non capisco questo atteggiamento dell'allenatore, comunque a questo punto anche societario, di portare a giocare la squadra con una punta. Tra l'altro una punta che dal mio punto di vista Vucinic è un po' evanescente in questo ultimo periodo, o forse sarà l'inizio del campionato. Non sarebbe meglio forse prodigarsi a far giocare la squadra con due punte, visti anche gli attaccanti che ci sono in panchina, tipo Matri, Quagliarella, che secondo me è molto valido? Grazie. Thomas, la coperta è corta, se quella difesa ha bisogno di essere protetta, ed è quello che credo che sia partito da qui, perché Conte lo sappiamo, era partito dal 4-2-4, fanfare eccetera, poi quando, questo in teoria prima di cominciare la stagione, poi quando ha messo un po' a fuoco sia il rendimento passato della Juventus sia insomma, qualche incertezza evidentemente sul campo o qualche limite di cui si è reso conto, mi pare che abbia reso il tutto un pochino più prudente. In realtà mi pare che ieri le risorse per essere offensivi ci fossero, perché la Juventus non aveva certamente tre attaccanti, però aveva una punta centrale come Vucinic, due esterni in grado di puntare l'area avversaria come Krajic e Pepe, in grado in teoria di puntare l'area avversaria come Krajic e Pepe, e giocatori di inserimento. Poi in realtà Krajic è un problema che ormai sembra quasi essere cronico. Pirlo ieri non era il Pirlo a cui la Juventus si è abituata in queste prime partite, ed ecco spiegato se non tutto, quasi tutto. Giancarlo Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io più o meno la sua età, quindi sì. Io mi ricordo, volevo parlare del fallo da ultimo uomo, io mi ricordo quando giocavo a calcio, facevo il libero, la cosa che ci insegnavano è che quando tu uscivi sull'uomo, l'ultimo uomo in corsa, l'ultima roba che dovevi guardare era la palla, cioè palla e uomo insieme non dovevano passare. Allora sì, a questo punto poi la punizione diventava 9 volte su 10 a tuo vantaggio che avevi fatto il fallo. Però una volta che c'è il rigore, e il rigore è trasformato, mi sembra che la proposta che ha fatto l'ex arbitro sia da prendere con una certa considerazione. Si batte il rigore, se segna tu hai già avuto la tua punizione per il tuo fallo, e poi per il fallo che commesso in aereo è necessario avere anche l'espulsione. Nel caso il rigore non si è trasformato, quello che è stato il vantaggio per te di avere fatto il fallo ti si ritorce contro con l'espulsione dell'ultimo uomo che l'ha commesso. Mi sembra una roba su cui si potrebbe ragionare. Ma Giancarlo, a me sembra un bizantinismo, a me fa venire in mente il basket, mi sembra una proposta di Sabatini, non so, faccio per dire, con tutto rispetto, per carità, ma insomma mi sembra quelle robe che non sono da pallone, per l'appunto, soprattutto lei che ha giocato, o così o pomì, cioè, o è da espulsione o non è da espulsione, o è da rigore o non è da rigore. La FIFA ha deciso dopo il 90 di introdurre questo inasprimento di pena. Inizialmente la cosa ha un po' funzionato, e poi cosa succede? Cosa è successo? È successo che quello che sempre accade quando, cioè, che la legge è fatta per è fatta a fin di bene, insomma, è fatta in maniera costruttiva, e poi diventa materia per i furbi. Perché fino al 90, fino al fallo da ultimo uomo con rigore e espulsione, in genere l'attaccante solo davanti al portiere calciava. In rarissimi casi cercava il dribbling sul portiere, bisognava che si chiamasse Sivori o Maradona, bisognava che fosse un grande campione, calciava sull'uscita. Adesso non c'è più nessuno che calcia sul portiere d'uscita, o quasi, pochissimi. In genere cerchi di dribblare, perché sai che al minimo accenno di contrasto ti butti un attimo prima, strisci la gamba come perché, insomma, è inutile che ci stiamo a ripassare il campionario, no? Sappiamo com'è questo film. Maurizio, provincia di Caltanissetta, buongiorno. Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno, niente, direttore. Dottore, allora. Sì, è inutile che ci provi. Infermiere, Maurizio. Infermiere. Grazie. Portantino, buongiorno. Portantino, buongiorno a lei. Senta, volevo dirle una cosa. Io vorrei che tutti noi facessimo un salto di qualità nel evitare di parlare di episodi e da rigore, non rigore, di moviola e quant'altro. Io, ad esempio, sono contentissimo che quest'anno siano un po' scomparse delle trasmissioni che erano tutte focalizzate sugli episodi da moviola, no? Perché voi ci avete sempre poi predicato che alla fine gli errori si compensano con i favori. Mai detto una fesseria del genere, giuro, no, Maurizio, no. Perché se no, mai detta nella mia vita, perché se no il Foggia, ha capito? Direttore, perché altrimenti, così come si dice che l'episodio di Pirlo poteva essere sicuramente un episodio a sfavore della squadra avversaria della Juve, altrettanto vero che c'era un fallo da rigore su Vidal che non è stato sanzionato. Ma non è vero. Tutto diventa opinabile. Ma Maurizio, tutto è opinabile. Ma questa non è moviola, questo è vedere o non vedere le partite con la velocità naturale. La velocità naturale l'arbitro non può dare quella strattonatina su Vidal, che peraltro non era poi molto più severa di quella di Kian, no? Su Brocchi, a proposito di Carpiati, non dà questo, perché c'è Krasic che nella grande giornata in cui era ieri, nel grande periodo che sta attraversando attualmente, si era già addormentato 3 metri oltre tutti, no? Quindi un fuorigioco che depotenziava l'azione da subito. Io credo che i due errori che ha commesso ieri l'arbitro, abbastanza seri a Verona, ma non c'entra la moviola, ripeto, perché si vedono benissimo a velocità naturale guardando la partita, sono l'aver perdonato a Pirlo, insomma, l'episodio Pirlo è cosa che non era assolutamente fallo, e invece un brutto fallo che viene commesso su uno juventino, che non ricordo chi è, con un braccio alzato, forse era Vidal, con un braccio alzato all'altezza della gola di questo, che era un fallo che poteva, se non da espulsione, come minimo da ammonizione lo era, un blocco improvviso e cattivo che l'arbitro non ha colto, strano, perché era in favore di cosa. Ma il minimo che si possa dire è che De Marco ieri era veramente in cattiva forma, e ripeto, questo al di là di qualsiasi moviola. Mauro ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, un piacere, volevo farle una domanda. Lei invece cosa ne pensa di invertire il rapporto forza rispetto alla difesa, in cui viene particolarmente vessata con espulsione e rigore concesso, ma punire con l'espulsione invece la simulazione, ma da evitare che un comportamento del genere possa commettere con una certa leggerezza? Io non so cosa si possa fare, so che una giornata come quella di ieri, dal mio punto di vista, è abbastanza diseducativa, ed è una giornata destabilizzante per un buon arbitraggio. Perché? Perché se 2 o 3 o 4 giocatori e di conseguenza squadre sono stati premiati per la loro premiati involontariamente, perché non è che l'arbitro sbaglia apposta, capiamoci, ma hanno ricavato un lucro concreto dal loro essere furbi, questo è il la cosa peggiore per la categoria arbitrale, perché cosa farà adesso? Cosa potrebbe fare? Forse dovrebbe diventare più severa e più selettiva nel punire certi episodi e quindi magari lasciarne perdere invece di quelli reali. Ma la colpa non sarà, o non sarebbe o non sarà, degli arbitri in questi casi, sarà di chi simula. Ecco perché chi simula, esagera, teatralizza è il peggior nemico del fair play calcistico. Torniamo per l'ultima parte, che viene aperta come sempre da Nicola Filippone con il suo Amarcord. Stavolta ha trovato per il 17 ottobre una data che personalmente non ho mai dimenticato. Sembra ieri. 17 ottobre 1982. Non ha ancora compiuto 43 anni Beppe Viola quando un'emorragia cerebrale lo sorprende in una tarda domenica pomeriggio, mentre negli studi milanesi della RAI sta montando per la domenica sportiva il servizio su Inter Napoli. Il giornalismo sportivo perde così uno dei suoi protagonisti più arguti, ironici, anticonformisti e geniali. Ma Beppe Viola era tante altre cose: narratore, umorista, sceneggiatore e paroliere, un talento di raro eclettismo. Gianni Brera lo immortalerà con queste parole. Aveva un humor naturale beffardo. Un'innata onestà gli vietava smancerie in qualsiasi campo si trovasse a produrre parole e pensiero. Lavorò duro, forsennatamente, per aver chiesto alla vita quello che ad altri sarebbe bastato per venirne schiantato in poco tempo. Lui le ha rubato quanti giorni ha potuto senza mai cedere al presago timore di perderla troppo presto. La sua romantica incontinenza era di una patetica follia, ed io, che soprattutto per questo lo amavo, ora ne provo un rimorso che rende perfino goffo il mio dolore. Bravo Nicola, ad esserti ricordato purtroppo di questa data. Ormai sono il prossimo anno saranno addirittura 30. Guardi che nel basket tutto è molto semplice, scrive Daniele a Venezia, si fanno 5 falli e si va fuori, non si finisce nel limbo come vorrebbe l'ascoltatore. Sì, ma si cambiano le regole in continuazione, ogni una alla settimana più o meno. Il campionato si fa a 16, poi si fa a 17, poi si ripesca, poi se uno retrocede paga 500.000 euro, viene riqualificato. Poi si può ingaggiare un giocatore, forse si può ingaggiare un giocatore per giocare solo poche partite contro alcune squadre. Ma lei se l'immagina essere il calcio, un giorno si sveglia un presidente che dice le prossime 8 partite le giochiamo con Messi, oppure con Cristiano Ronaldo, oppure con... Si immagina cosa viene fuori? Franco da Modena, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, due disquisizioni velocissime. Una su Pirlo, io sono un tifoso milanista e quando è andato via eravamo tutti un po' perplessi, però le chiedo se secondo lei è una casualità che le due prestazioni così e così nella Juve, perché questo ha giocato benissimo, vengono dopo due partite in nazionale, quindi probabilmente visto l'età non ha più, diciamo, la possibilità di fare una partita tutte le settimane. L'altra invece è sulla lezione di Luis Enrique, l'ha data anche a Massimo Mauro, perché ultimamente vedo che a Sky coglie sempre l'occasione per polemizzare, ieri con Lotito, ma con Lotito è facile, ma ho visto che anche con Allegri è riuscito a polemizzare, quindi dico, forse una lezione, oltre che a noi tifosi la possono dare anche ad alcuni giornalisti pseudotali. Grazie. Senza alcun dubbio su questo. Grazie del suo intervento. Lei è uno dei pochi, scrive un ascoltatore, che ha visto la gomitata di Cesar a Vidal. Ecco chi erano, Cesar a Vidal, in effetti. No, gomitata forse è troppo, ma insomma gli ha messo un braccio in una maniera molto brutta, così come era molto brutto l'intervento di Rosi ieri sera sull'esterno della Lazio, ma proprio bruttina, era tra il giallo e il rosso, non c'è alcun dubbio. Oggi dovrebbe essere anche il compleanno di Nelson Piquet, scrive Gilberto da Carpi. Boh, insomma, io leggo il suo messaggio e vado sulla fiducia. Evidentemente ci vorrebbe il giudice sportivo con la prova TV per squalificare i furbetti. Lo so, sono d'accordo con lei. Il problema è che mi pare che la prova TV sia leggermente tramontata, no? Perché secondo lei le società sono contente se si va a fare le pulci ai loro furbetti del quartierino che si buttano per prendere i rigori, oppure ne farebbero a meno volentieri? Provi a porsi questa domanda e a darsi una risposta. Vincenzo ha chiamato da Chieti, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Come no? Allora, io avevo chiamato un paio di settimane fa e avevo fatto dell'Inter. Già 2 settimane. 32enne, attaccante, Milito, Forlan. Milito, fino adesso ha fatto 4 gol, tutti 4, ma neanche lui sa come ha fatto. Forlan già è infortunato, ma se l'Inter non ha carte il giocatore, ma che se vuole lamentare Moratti. Buonasera, ascolto per Rado. No, no, abbiamo già ascoltato lei, mi sembra che per oggi grosso modo abbiamo dato. Io sentirei il commento della prima di Pioli alla prima vittoria del Bologna, ripeto, l'unica dell'intero pomeriggio calcistico di ieri. Abbiamo cominciato il piede giusto, per noi era già una partita molto delicata, eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare, perché il Novara è sicuramente una signora squadra che ha messo in difficoltà tutti gli avversari, quindi abbiamo subito un po', però eravamo altrettanto consapevoli di avere anche noi le nostre carte, le nostre qualità da giocarci, e siamo stati bravi a crederci sino alla fine. Se avessi schierato Ramirez dall'inizio avrei messo in campo Coné, Mudinga e Ramirez, tre centrocampisti su quattro che hanno fatto solamente due allenamenti con noi, e oltretutto ha giocato Diamanti, che è un signore giocatore. Luis Enrique, mi sembra che potrebbe essere, ripeto, istruttivo, no? Ascoltare questo signore, perché vincere o perdere un derby a 18 secondi dalla fine può provocare reazioni inconsulte. Ripeto, un uomo di 45, 60, un uomo di 66 anni che si fionda sotto la curva di corsa, neanche fosse Malesani giovane peraltro, ma insomma, diciamo che un minimo di sensazione la fa, no? Per chi lo vince, per chi lo perde, e oltretutto con qualche dubbietto finale, perché insomma, quel fallo di Osvaldo, insomma, alcune cose insomma, che potevano anche lasciarlo perplesso, un allenatore di casa nostra non so cosa avrebbe detto nei panni dell'allenatore della Roma alla fine. Invece sentiamo Luis Enrique. Mamma mia, che finale, sì. Bueno, un peccato per noi per come è stata tutta la partita. Quando già credevamo che il risultato era pareggio e l'sforzo di tutta la squadra, bueno, non abbiamo avuto la fortuna che bisognava. Io sono contento dell'sforzo dei miei calciatori, penso che la Lazio pure ha fatto una bella seconda parte, dopo dell'espulsione ha fatto qualche occasione di gol per fare questa situazione, e lo che è un peccato per noi è che arrivi questo gol nel tempo di sconto. Chapeau, dicono i francesi, mentre invece Gilberto scrive il seguente messaggio: dopo aver sentito citare Viola e Brera, lei non può lasciare che un ascoltatore dia impunemente del giornalista Massimo Mauro. Ha ragione Gilberto, domando seriamente scusa. Roberto dalla provincia di Foggia, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Niente, proprio riguardo queste ultime parole di Luis Enrique, io le volevo fare una proposta, magari se lei si fa promotore di una sanzioni post partita tipo per Mazzarri. Cioè, che cosa ne pensa lei di questi sfoghi assurdi senza senso di un allenatore che ma forse non avrà visto la partita, mi domando io. No, cioè, la partita la vede come? La vede con i suoi occhi. Lui è un allenatore parziale. Poi io non, guardi, secondo me lui è ancora un gradino al di sopra di Mourinho, perché Mourinho le cose le rendeva, le falsificava scientemente, no? per scopi propri, per una strategia precisa. Io credo che Mazzarri invece, nella sua antisportività e nella sua miopia, sia in perfetta buona fede. Lui è davvero convinto che sia così. cosa vuol farci? L'unica è non dargli retta, mi sembra. Grazie a Fabio Contadori in regia anche per oggi, grazie a Franco Pentanida in redazione, buon pomeriggio.